Nel frattempo cercava di intrattenermi sull'argomento che più gli interessava, il signor di Charlus. Trovava commovente che proteggesse un violinista. Sembra intelligente e di una vivacità straordinaria per un uomo già un po' anziano, aggiunsi io. Anziano? Ma non lo sembra affatto, guardate, il capello è ancora giovane. Da 3 o 4 anni, infatti, il termine capello veniva usato al singolare da uno di quegli sconosciuti che lanciano le mode letterarie, e tutte le persone sulla stessa lunghezza d'onda di Madame de Cambremer dicevano il capello, non senza un sorriso affettato. Attualmente si dice ancora il capello, ma dall'eccesso del singolare rinascerà il plurale. Quello che soprattutto mi interessa nel signor di Charlus, aggiunse la marchesa, è che in lui si sente la presenza del dono. Vi dirò che della cultura faccio ben poco conto, ciò che si impara non mi interessa. Queste parole non sono in contraddizione con lo specifico valore di Madame de Cambremer, che era per l'appunto imitato e acquisito. Ma una delle cose che in quel momento bisognava assolutamente sapere era che il sapere non è niente, non conta un fico secco rispetto all'originalità. Madame de Cambremer aveva imparato, con tutto il resto, che non bisogna imparare nulla. E per questo aggiunse che Brichot, pur avendo un suo lato curioso, non disprezza affatto una certa erudizione gustosa. Mi interessa comunque molto meno. Ma Brichot, in quel momento, non pensava che a una cosa. Sentendo che si parlava di musica, tremava al pensiero che l'argomento ricordasse a Madame Verdurin la morte di Deschambre. Voleva dire qualcosa per allontanare quel ricordo funesto. Il signor di Cambremer gliene fornì l'occasione con questa domanda. «Allora i luoghi boschivi portano sempre i nomi di animali?» «Certo che no», rispose Brichot, felice di poter sfoggiare la sua dottrina di fronte a tanti nuovi, fra i quali gli avevo dato la certezza di interessarne almeno uno. Basta vedere quante volte nei nomi stessi delle persone sia conservato un albero, come una felce in un pezzo di carbon fossile. Uno dei nostri padri coscritti si chiama De Source de Fresinet, il che significa, salvo errore, luogo coltivato a salici e frassini, salix et fraxinetum. Suo nipote, il signor De Selve, riunisce ancora più alberi chiamandosi appunto De Selve. Silva. Saniette assisteva con gioia all'animarsi della conversazione. Poiché Brichot parlava ininterrottamente, lui poteva serbare un silenzio che gli avrebbe evitato le frecciate dei due Verdurin. E, reso ancora più sensibile dalla gioia di vedersi liberato, s'era commosso quando il signor Verdurin, malgrado la solennità ad un tale pranzo, aveva ordinato al maggiordomo di mettere una caraffa d'acqua accanto a lui, che non beveva altro. I generali che fanno ammazzare il maggior numero di soldati si preoccupano che siano ben nutriti. E poi una volta Madame Verdurin gli aveva sorriso. Decisamente erano brave persone, non lo avrebbero più torturato. In quel momento il pasto fu interrotto da un commensale che ho dimenticato di citare, un illustre filosofo norvegese, il quale parlava francese molto bene, ma molto lentamente, per una duplice ragione. Innanzitutto perché, avendolo imparato di recente e non volendo commettere errori, alcuni tuttavia ne commetteva, attingeva per ogni parola a una sorta di dizionario interiore, e poi perché, come metafisico, pensava sempre a ciò che voleva dire mentre lo diceva, il che, anche in un francese, è causa di lentezza. Era del resto una persona deliziosa, sebbene apparentemente simile a tante altre, salvo che in un punto. Quell'uomo, dall'eloquio così lento, c'era una pausa di silenzio fra ciascuna parola, diventava ad una rapidità vertiginosa nello sparire subito dopo aver formulato i suoi saluti. Tanta precipitazione induceva la prima volta a credere che avesse una colica o un bisogno ancora più impellente. «Mio caro collega», disse a Brichot dopo aver dibattuto fra sé e sé se collega fosse la parola più adatta, una sorta di desiderio per sapere se vi sono altri alberi nella nomenclatura della vostra bella lingua francese, latina, normanna. Madame, intendeva Madame Verdurin, pur non osando guardarla, mi ha detto che sapevate tutto. Non è precisamente il momento? No, è il momento di mangiare, lo interruppe Madame Verdurin, la quale vedeva che il pranzo andava per le lunghe. Ah, bene, riprese lo scandinavo, chinando la testa sul piatto con un sorriso triste e rassegnato. Ma devo far osservare a Madame che mi sono permesso questa interrogazione, chiedo scusa, questa interroganza, perché domani devo tornare a Parigi per mangiare dalla Tour d'Argent o dall'Hotel Meurice. Il mio confratello francese, il signor Boutrou, deve riferirci delle sedute di spiritismo, chiedo scusa, delle evocazioni spiritose che egli ha controllate. Non è un granché come dicono la Tour d'Argent, disse Madame Verdurin irritata. Qualche volta ci ho mangiato in un modo detestabile. Ma mi sbaglio o il nutrimento che si mangia in casa di Madame è un esempio della più fine cucina francese? Dio mio, non è poi tanto male, rispose Madame Verdurin rabbonita. E se verrete mercoledì prossimo sarà anche meglio. Ma parto lunedì per Algeri e di là vado al capo. E quando sarò al capo di Buona Speranza, non potrò più incontrare il mio illustre collega. Chiedo scusa, non potrò più incontrare il mio illustre confratello. E si mise per obbedienza, dopo aver fornito queste scuse retrospettive, a mangiare con rapidità vertiginosa. Ma Brichot era troppo felice di poter esibire altre etimologie vegetali e rispose al norvegese, destandone a tal punto l'interesse che questi smise nuovamente di mangiare, facendo però segno che potevano togliergli il piatto ancora pieno e passare al successivo. Uno dei 40, disse Brichot, si chiama Useye, ovvero luogo piantato ad agrifoglio. Nel nome di un fine diplomatico, d'Aumesson, si ritrova l'olmo, l'ulmus, caro Virgilio, che è anche l'etimo della città di Ulm. Fra i suoi colleghi c'è il signor della Bulaie, da Betulla, il signor Denet, da Ontano, il signor de Bussier, da Bosso, il signor Albaret, da Alburno, mi promisi di dirlo a Celeste, il signor de Cholet, da Cavolo, e infine il pomo, nel nome del signor della Pomeraie, che abbiamo ascoltato in veste di conferenziere, ve ne ricordate, Sagnet? Ai tempi in cui il buon Porel era stato inviato ai confini del mondo come proconsole in Odeonia. Al nome di Sagnet, pronunciato da Brichot, il signor Verdurin lanciò alla moglie e a Cottard uno sguardo ironico, gettando nel panico il poveretto. Dicevate che Cholet viene da Cavolo, intervenni rivolgendomi a Brichot. In nome di una stazione dove sono passato prima di arrivare a Doncia, Saint Frichot viene anch'esso da Cavolo? No, Saint Frichot è Sanctus Fructuosus, così come Sanctus Ferreolus è diventato Saint Ferjot, ma non ha nulla a che fare con la Normandia. Sa troppe cose. Ci sta annoiando, gorgogliò dolcemente la principessa. Ci sono tanti altri nomi che mi interessano, ma non posso chiedervi tutto in una volta. E girandomi verso Cottard, Madame Putbus è arrivata? Gli chiesi. No, grazie a Dio, rispose Madame Verdurin, che aveva sentito la mia domanda. Ho cercato di dirottare le sue villeggiature verso Venezia. Per quest'anno ce ne siamo sbarazzati. Avrò diritto anch'io a due alberi, disse il signor di Charlus, perché ho quasi fissato una casetta fra Saint-Martin-du-Chêne e Saint-Pierre-des-Ifs. Ma è vicinissimo a qui. Spero che verrete spesso in compagnia di Charlie Morel. Per i treni basterà che vi mettiate d'accordo col nostro piccolo gruppo. Siete a due passi da Doncières, disse Madame Verdurin, la quale non sopportava che gli ospiti non arrivassero con lo stesso treno e nelle ore in cui li mandava a prendere in carrozza. Sapeva quanto fosse dura la salita alla Raspellière, anche facendo il giro dei sentieri dietro Féterne, che richiedeva una mezz'ora di più, e temeva che alcuni, facendo gruppo a sé, non trovassero poi carrozze per farsi accompagnare o addirittura, rimasti in realtà a casa, potessero addurre il pretesto di non averne trovate a Deauville-Féterne e di non essersi sentiti di compiere a piedi una tale ascensione. A questo invito il signor di Charlus si limitò per tutta risposta a inchinarsi in silenzio. «Non deve essere piacevole frequentarlo ogni giorno, sta maledettamente sulle sue», sussurrò a Ski il dottore, il quale, essendo rimasto molto semplice, a dispetto d'un superficiale strato d'orgoglio, non cercava di nascondere che Charlus lo snobbava. Ignora, forse, che in tutte le città termali, e anche a Parigi nelle cliniche, i medici, per i quali sono naturalmente il grande capo, considerano un onore presentarmi a tutti i nobili che ci sono in loco e che con me perdono ogni alterigia. La cosa mi rende anzi piuttosto gradevole soggiorno nelle stazioni balneari, aggiunse con leggerezza. Anche a Doncières, il maggiore del reggimento, che è il medico curante del colonnello, mi ha invitato a colazione con lui, dicendomi che avrei potuto benissimo pranzare con il generale, e questo generale è un signor di qualcosa. Non so se le sue pergamene siano più o meno antiche di quelle di questo barone. Non lasciatevi impressionare, è una ben povera corona, rispose Schi a mezza voce, e aggiunse qualcosa di confuso con un verbo di cui distinsi solo le ultime sillabe. Endere. Occupato com'ero ad ascoltare quel che Brichot stava dicendo al signor di Charlus. Probabilmente no, mi dispiace dovervelo dire, ma avete un solo albero, giacché se Saint-Martin-du-Chêne è senza alcun dubbio Sanctus Martinus juxta quercum, in compenso la parola if può essere semplicemente la radice ave eve, che significa umido, come in Aveyron, Lodev, Ivet, e che vede sussistere nei nostri lavelli di cucina. È l'acqua che in bretone si dice ster, ster Maria, ster Laer, ster Buest, ster Androchen. Non udì la fine perché, pur con tutto il piacere che provavo a riascoltare il nome di ster Maria, sentivo mio malgrado Cotard, al cui fianco era seduto, dire sottovoce a Ski: «Ah, ma non lo sapevo. Allora è un signore che sa come destreggiarsi nella vita. Guarda, guarda, è della confraternita, eppure non ha le borse sotto gli occhi. Bisognerà che faccia attenzione ai miei piedi sotto il tavolo. Ci mancherebbe solo che si invaghisse di me. Del resto mi stupisce solo a metà. Vedo parecchi nobili alla doccia in costume adamitico. Sono più o meno dei degenerati. Non gli rivolgo la parola perché, insomma, sono un funzionario e la cosa potrebbe danneggiarmi. Ma loro sanno perfettamente chi sono». Saniette, che s'era spaventato sentendosi interpellare da Brichot, cominciava a respirare, come uno che, timoroso del temporale, veda che al lampo non è seguito alcun tuono, quando udì il signor Verdurin rivolgergli una domanda non senza fissarlo con uno sguardo implacabile, in modo da sconcertare lo sventurato e impedirgli di riprendersi. «E così, Saniette, ci tenevate nascosto che siete un frequentatore delle matinee all'Odeon?» Tremando come una recluta davanti a un sergente torturatore, Saniette rispose, riducendo al massimo le dimensioni della frase perché avesse maggiori probabilità di sfuggire ai colpi. «Una volta, alla chercheuse». «Che cosa dice?» urlò il signor Verdurin, in tono al tempo stesso disgustato e furioso, aggrottando le sopracciglia come se tutta l'attenzione non gli bastasse per capire qualcosa di inintellegibile. «Prima di tutto non si capisce quel che dite. Si può sapere cosa avete in bocca?» chiese, sempre più violento e alludendo al difetto di pronuncia di Saniet. «Povero Saniet, non voglio che lo facciate soffrire», intervenne Madame Verdurin in tono di falsa pietà e perché nessuno potesse dubitare dell'intenzione insolente del marito. «Ero alla... cercate di parlare chiaro», disse il signor Verdurin. «Non riesco neanche a sentirvi». Quasi nessuno dei fedeli tratteneva le risa. Sembravano una banda di antropofagi nei quali una ferita inferta a un bianco avesse risvegliato il gusto del sangue. L'istinto di imitazione e l'assenza di coraggio governano, infatti, sia la società che le folle. E tutti ridono di qualcuno che vedano schernito da qualcun altro, salvo venerarlo 10 anni dopo in una cerchia dove sia ammirato. È in questo stesso modo che il popolo scaccia o acclama i re. «Via, non è colpa sua», disse Madame Verdurin. «Ma neanche mia. Non si va a un pranzo se non si è più in grado di articolare». «Ero alla chercheuse d'esprit di Favart». «Che cosa?» «È la chercheuse d'esprit, quella che chiamavate la chercheuse». «Straordinario! Avrei potuto pensarci 100 anni senza scoprirlo», esclamò il signor Verdurin, che peraltro, se avesse sentito qualcuno dire per intero il titolo di certe opere, l'avrebbe giudicato senza la minima esitazione un illetterato, un non artista, uno non dei loro. Bisognava dire, per esempio, le malades, le bourgeois, e chi avesse aggiunto imaginaire o gentilhomme avrebbe palesato di non essere del mestiere, così come in un salotto si dà la prova di non appartenere al gran mondo dicendo Montesquieu, Fezensac, invece di Montesquieu. «Ma non è poi così strano», obiettò Saniet, soffocato dall'emozione ma sorridendo, sebbene non ne avesse alcuna voglia. Madame Verdurin non si trattenne. «E come se è strano!» proruppe sogghignando. «Siate pur certo che nessuno al mondo avrebbe potuto indovinare che si trattava della chercheuse d'esprit».